più comode quelle senza filo, perché ti sposti. Purtroppo la radio che ho ce l'ha l'uscita per le cuffie, ma è quella spinotto, e attualmente non ho niente di quel tipo lì di cuffie da collegare. Se no, in effetti non è male da sentire con le cuffie, perché non senti tutti i rumori esterni. Ho capito. Ah, queste sono buone, queste sono da studio proprio. Sono un paio di cuffie Sennheiser, che sono da studio queste qui. Senti la voce di lusso, se non la musica mia, santo, la senti bene con queste cuffie. Quelle sono buone cuffie, fatte per sicuramente per la musica, ma anche se senti la radio così si sente bene lo stesso. Vai Antone. Adesso non riesco a faccio la prova. Mi prendo un paio di quelle cuffie Bluetooth, me le metto in testa, poi aggancio il box, metto il microfono con la parte fissa, regolo il box, poi vado in bagno quando sto facendo il cocò. Così mi risponde quando sto cagando con le cuffie. Questa è bella, almeno sentiamo i rumori molesti. Allora, quando c'è uno che effetti di 250 te lo dico di là, col box, il microfono a tavolo, io lanciavo quelle buone cuffie, quelle Bluetooth, scendevo giù al piano di sotto e parlavo tranquillamente. Si agganciava il box. Già lo so che fa così. Non c'è nessun altro stasera, no, dopo cena solitamente qualcun altro entrava, invece non c'è nessuno a parte noi. E già entra qualcuno, magari stanno mangiando. Ci sono le 10:15 già. E infatti io per esempio sono tornato poco fa, che ero a quel corso che sai, quindi sono uscito anche tardi oggi, quindi non sono tutti che... Io sono entrato perché dovevo chiudere questo microfono, siccome sono dovuto uscire in fretta l'ho lasciato aperto. E lo immagino. Vabbè, è importante che l'hai messa a posto Natalia, perché quello è fondamentale, quel microfono. Sei su BP Veo, avanti questo BP tipo orologio. Gente di fuori, se arriva a Santiago 9 qua, dimmi due. Un BP rugginoso, ciao. Sei da BP, degli orologi. Dei Casio. Quello di Casio mi sembra che la faceva. C'è qualcuno che vuole entrare su 10? Nada, io ce l'ho squelciato perché sennò c'erano un sacco di rumori e quindi l'ho messo alto. No, io squelci non ne ho qua, però c'è un'altra baracchina, è con le 4.000. Domani se mi mandano il contatto di quella persona, Antone, poi una mattina magari se ti viene bene, se non hai impegni, ci facciamo un salto là, tanto penso un paio d'ore andiamo e torniamo. Io quando eravamo a Chiesi con Giovanna ci mettevamo 2 ore, massimo, 2 andata, 2 ritorno. Andare sarà 3/4 d'ora per andare e per tornare, una mezz'oretta che rimarremo lì, 20 minuti, non lo so, e poi ce ne ritorniamo. Dove devi andare, Carlo? Portare una radio da mettere a posto. Quella che mi ha dato Gianni, e così la mettiamo a posto. Infatti. Quella lì ci vuole solo il prezzinale, vedrai. Ma Claudio mi ha detto, Massimiliano, che questa persona che diciamo è un mago, dai, che è bravo e sicuramente già la sistema. Mi devono dare il contatto così vedo un po' di organizzare il tutto. Tanto ce l'ho giù, non è che ho fretta, perché con tutta la calma di questo mondo. Infatti. Perché con questa già riesco a fare tutto. AM, FM, bande laterali. e poi c'ho l'aiutino anche quando serve, per cui già va bene, però diciamo quella è più completa come radio, anche se è bella manna, però diciamo che l'ho presa più che altro perché l'avevo vista nei giorni scorsi, ho detto cavolo, peccato di radio, nuova è proprio, e quindi ho detto se riusciamo a metterla a posto, capito, magari la, insomma, la posso anche tenere, dai, poi vedo un po'. È una bella radio quella, ce l'ho avuta anch'io, quella è una bella radio. Ho provato quella di Antonello, l'ho tenuta per una settimana, 10 giorni, bella sì, perché insomma c'ha tante cose, tanti strumenti, insomma, a parte la grandezza, però insomma, e poi la comodità che attacchi la spina all'antenna e va, non c'è bisogno di alimentatore, capito, e sembra così, quello è un po' comodo, dai. Comodo sì, fa 220, ce l'ho avuto anch'io, ti ripeto, è una bella radio, funziona bene. Il microfono che ci va abbinato, lo sai qual è, lo Shure, passa anche al Turner più 3, ha provato il Turner più 2, nulla, lo Shure era il più forte, si abbina proprio a quella radio lì. Praticamente la radio ce l'ho, ma il microfono non ne ha, io ho un MB più 4 e non so se va bene perché devo fare l'attacco nuovo, perché l'avevo fatto per questa radio, ma non è che lo posso usare perché in questa non prende l'amplificazione, capito? E quindi mi sa che lo preparo per quella, quando funzionerà bene. E a voi se va bene l'MB più 4? Lì. Va bene l'MB più 4, l'MB più 5, il Fa Delta, tutti quei microfoni lì vanno bene. Vediamo quando gliela porto, per me non ho fretta, la può tenere una settimana, un mese, non ha, poi l'importante è metterla a posto bene, capito? Poi quando la ritiro avrò modo di provarla e collegare i vari microfoni, così vediamo un po' se la rimettiamo a posto quella. Più quanto già te lo faccio io, non è quello il problema. Tanto io ce l'ho nel coso, già lo sai. Nel 2009 che ti ho dato nel 2004, quindi le connessioni già te le faccio io, non è quello il problema. Una volta che lo ritiri, mi porti 2 minuti il microfono e lo facciamo qua stesso. Agganciamo il 4000 e ti faccio le puntazioni veloci. Dopodiché ti porti il coso a casa, il microfono a casa è già pronto per modulare. Già lo sistemiamo quello, se no te lo lascio, mio Antone, ti do un microfono con lo spinotto nuovo, ti salvi il vecchio che c'è, che è quella 6 pin, solo che ne avevo fatto 4 io di attacchi, capito? 2 sono non collegati, se no mi bruciava la radio, capito? Perché questa radio che sto usando è molto sensibile, se sbagli il collegamento ti si brucia la radio. Quindi mi avevano detto stai attento quando fai il ed ero stato attento, piano, avevo fatto le saldature col saldatore quello a bassa tensione, capito, per non bruciare tutto, perché sono fili sottili, e diciamo il microfono va bene, come il microfono normale su questa radio è perfetto, c'è anche meglio di questo che sto usando, capito, che è l'originale della radio, solo che non ha senso utilizzarlo come microfono normale perché quello lo sfrutti meglio come microfono preamplificato, capito? Già lo so, meglio che lo faccio io, le 24, ti metto lo spinotto 4, ti metto e te lo collego, così quando ti riprendi l'apparecchio c'è già pronto, non fai altro che agganciarlo e modulare e basta. Allora, quando ho tempo lo preparo, mi procuro lo spinotto e così me lo metto in una busta, un giorno te lo passo, così. così, quando hai tempo, senza fretta, anche quello. Natali, ci sei ancora? Ehi, sono qui, devo aspettare fino alle 11. Che... Hai mangiato, hai cenato? Sì, però devo aspettare, mi devo misurare la glicemia e poi farmi l'iniezione dell'insulina, capito? Quindi devo aspettare fino alle 11. Ho capito, già ci vuole poco, da un'oretta e poi te ne va a dormire così tranquillo. E dovete già anche quando niente adesso, stavo operando Natali, quindi c'è stato anche lui, c'è ancora il coso, ci sono aperto per la dire a mangiare, roba del genere, Giulia, tutto orario, e toccherà scenderci io, fate preparargli la cena e gli avrei che menù può mangiare, quello è. E poi per il suo vita, a fare l'iniezione, perché già penso che già se la faccia lui, che è bravo a fare l'iniezione già appena. E quella è una cazzata, altrimenti ti rimparo io a farla. È una cazzata a fare l'insulina, ti daranno la penna ed è una cavolata. E se no vi metteranno quell'affare famoso che fa tutto in automatico, capito? Cioè, quell'affare fa tutto da solo, non fare altro che riempire ogni tanto e poi facciano fare automatico. Però anzi che a lui gliela diano, a me non me ne hanno dato, io mi faccio con 4 insuline, no, è sottocutanea di insulina, capito? Capito, quindi devi pizzicare un po' la pelle e poi farla così. No, non devi pizzicare niente, devi entrare lago e buco, perché è piccolo, quindi non puoi sbagliare. Allora già è facile, dai, già dovrebbe essere facile, perché più di quello non entra, allora con la penna la fai, no? E allora, no, io le so fare anche quelle con la siringa, perché le faceva mia mamma, le facevo, quelle dovevi pizzicare, come stavi dicendo tu, entrare la gola di traverso, invece questa dritta la metti bruttando, premi ed c'è l'insulina. Ho capito, sì. E poi questione di pratica, tutto sta vederlo la prima volta, farlo magari con una persona che lo sa, e poi una volta che impari ti metti a fare giorno dopo giorno, non te lo dimentichi più. No, io infatti mi faccio tutto io, perché lo sapevo già fare da mia madre, capito? C'era mia madre che era diabetica e quindi gliela facevo io la situazione. Ho imparato anche un ragazzino che ha avuto il diabete a 18 anni, quando ne uscito 4 insuline appena uscito all'ospedale, come me stesso. E c'aveva 18 anni questo ragazzino, l'ho dovuto insegnare alla mamma e tutto, sai che lui non riusciva a farcela, e allora sono dovuto scendere io a Porto Torres a insegnarglielo. Vabbè, dai, già è utile, anche un'opera buona hai fatto, dai. Antone, tuo fratello come sta? Tu ce l'ho ancora ad andare. Il problema adesso è che lì in ospedale è 3 volte alla settimana. Devo controllare perché sembra che lunedì, mercoledì e venerdì, se non mi sbaglio. Quindi perché ne fatto uomini è così, poi ne fatto donne, pare che martedì, giovedì e sabato. Ricoverati in medicina oppure da altre parti? Boh, bisogna che sia la Giovanna, me ne sono dimenticato di chiedere ieri, adesso la vedo domani Giovanna senz'altro. Però la vedo glielo chiedo, perché dov'è, così gli porto l'acqua. Al limite. Cioè c'è il telefono, ma mi ha telefonato l'altro giorno, solo che si mette il telefono distante, quindi a volte non lo sento per niente. Evidentemente, cioè oggi non ho sentito per niente, evidentemente forse l'hanno operato, non lo so. Mi metto a giocare, ce l'avevo all'ospedale, quindi se l'opera, ho vuol dire che la cosa ce la va già da prima, non se ne è mai accorto. Già, ho capito. Benemera, io adesso mi sa che chiudo perché mi devo preparare per domani mattina. Domani c'è il turno dalle 5:30 all'una e mezza. Quindi mi preparo quel cavolo di divisa, eccetera, e mi sa che mi devo passare un po' la barba, come ne vado a letto veloce veloce, perché tra una cosa e l'altra farò le 10:30. E quindi a domani sera se ci siete, perché domani mattina sino all'una e mezza sono a lavoro, poi tra mangiare e riposarmi dopo pranzo riaccenderò domani sera. Va bene, grazie della piccola chiacchierata. Natalino, buona serata. Tu devi fare le 11, già ti fa compagnia Antonello. Ciao Antone, ci sentiamo casomai domani sera, se ho bisogno già ti telefono. Dai, va bene, buonanotte a tutti. Via, d'accordo, ciao Carlo, buonanotte. Se hai bisogno chiamami, non c'è problema. Caso Pinocchio. Avanti, Natalino. Ok, ciao Carlo, buon proseguo, buonanotte, con i sicuri che alle prossime, là, e buon trabacco per domani, grazie per le quattro chiacchiere. Io purtroppo devo aspettare fino alle 11 per potermi coricare e oggi ho fatto tardi. Purtroppo. Avanti Antonio. L'importante è che va bene, che lo fai, che riesci a fare tutto subito. La cavolta avevi fatto, solo che gli altri ricruti c'era un po' di casino e quindi non te l'avevano fatto passare. Questa volta però passi, vedrai, subito. Sì, infatti, vabbè, dai, non ho problemi. Oggi ho fatto tardi perché sono uscito tardi da quel cavolo di corso e da domani torno a studiare. Abbiamo fatto altra cosa e quindi è un caso. Studiare fa bene, almeno ti riparli della roba da solo, capito? Non devi stare andare da un tecnico a cambiare il tassista o roba del genere. Una volta che lo sai fare, che conosci tutto, vedrai che ti arrangi da solo a fare le riparazioni, eccetera, eccetera. Basta che sai il livello di base di ritorni che si apposta. E una pratica lì non ne facciamo, solo teoria. Sì, vabbè, la pratica già si può fare, basta che vedi qualcuno gli altri lo segnerano, ti preoccupare, non è quello il problema. E qualcosina già la so fare per esperienza mia, capito? Vabbè, in pratica te la può fare anche Franco, già per la questione dei transistor, resistenze, condensatori, eccetera, eccetera, capito? Polarizzazione. Comunque può insegnare tranquillamente Franco, già basta che ci vai una settimana insieme a lui, fare le riparazioni, vedrai come fare subito. Stato io con lui, figurati, tanto tempo fa, a riparare quelle le lavatrici quelle industriali, eppure non era campo mio, perché quella è elettromeccanica, capito? Io mi facevo solo la parte delle piastre e basta, roba di elettronica, quindi due cervelli in uno, facevamo le cose veloci, facevamo e fatte bene. Ah, quello è poco ma sicuro, Facciamo tante volte con Franco, uscivamo per dire alle 8:30, 9:00, di solito lui entrava verso le 8 di sera, allora, quando usciva con me, noi alle 5:00, 5:30 eravamo a Sassari, lui tranquilli, avevamo fatto tutti i giri che c'erano da fare, mi organizzavo un giro io insieme a lui, capito? Partiamo da qui e finiamo da là. E vedere che arriviamo prima a Sassari, così facevamo. Poi andavamo al bar, stavamo lì, cosa dire, una mezz'oretta, ci beveva 2, 3 birre, 4, boh. E poi andavamo lì dove lavorava lui, hai capito? Ho capito. E gli ha tolto l'audio, se no si sentivano anche loro dal ricevitore, capito? È stato detto che io un ragazzino. Andare su 7 TMF un attimo, se mi ascolti con la verticale. Se ti faccio un paio di passaggi. Aspetta che me lo imposta, perché nella frequenza di loro. Aspetta un attimo. Ehi, oi. Che? Cavo. Sì, me ne sono dimenticato come funziona questa cosa. Ho capito. Non riesco a metterlo. E ce li ho memorizzati. E beh, posso che non ce li ha, ma sono un po' facile. Se ci può fare direttamente in antenna. E vedi se mi senti. Vai Antonè. Ehi, adesso. Antonello, mica sono lì, eh. Beh, mi senti? Ah, pari, mi senti? Negativo, non arrivi, no. Non ti arrivo, non è possibile, perché io sento tutti, benissimo. Sento anche la frequenza marina, adesso, non lo sentivo. Non mi ha detto nel canale 7, PMR. Segnami, qua. Allora magari è per quello. Quando un piazza l'antenna come si deve, già si dovrebbe ascoltare con l'antenna buona, là, proprio per lì. E quindi già ti ascolto bene. Adesso sono con l'antenna sulla finestra io, giustamente non ti ascolto. A me Natalia funziona il microfono. Lo uso, guarda tu se funziona. L'ho chiuso poco fa. Era grande, va bene. Sappio, che tu sei rimasto un po' indietro, che questi cazzo di MC60, l'unico difetto che possono fare è quel piolino, perché il cavo qua lo sto usando io, non c'ha niente. Vuol dire che era quel piolino che andava male. Ma già gli ho dato la medicina dell'occhio, c'è uno spray che è di lusso. Va bene, dai, stai andando benissimo alla grande. Mi ha aggiustato anche le cuffie, mi ha aggiustato, funziona tutto adesso. K di Roger, ultima modulazione, va bene. Per me puoi anche leggermente sollevarlo appena appena. Quanto ce l'hai, Michi? Basso ce l'ho, aspetta che guarda quanto ce l'ho e ti dico subito che dovrei averlo basso, stai male. Guarda, vabbè, lo puoi mettere a uno. È inutile avere cazzo un microfono del genere, con la radio del genere, tenete il Michi in cazzo che non si intende la radio. Fa la bomba a radio. A Maida si pompa, guarda un po', l'ho alzata per appena, a uno ce l'ho. Prova a metterla a 1,5, intanto tu parli piano. Guarda, 1,5 magari è troppo. Va bene, così è troppo. Bene, va. Alla grande, se non sollevi la voce va benissimo. No, io già non è che parlo forte. Va bene. Bene, Antonio. Va bene, ma c'è un... Non te la deve essere stato un del padre, perché se ci sono questi scatti strani di segnale. Però ho capito cosa diavolo sia. Si controlla, sarà qualche piede mollato che ti controllate di queste cose. Anch'io l'ho notato, non è un problema del radio, è il segnale che si muove, non è il microfono, è lì è questione del radio. Controlla se il piede è attaccato bene, se il commutatore sta funzionando bene. Ma lì, non serve segnale niente, cazzo, cioè, quando ci avete una radio del genere, i maracchini mettete dentro l'armadio, cazzo, l'antenna, mettigliela diretta, cazzo, blu. Eppure è accordato bene, con quell'automatico, gli ho messo l'accordatore automatico, sembra che funzioni bene. Sì, stai andando bene, però noto anch'io sempre questo movimento di segnale, e non è questione di microfono. È come se ci fosse il vento che il tocca non tocca, capito? Poi ci fosse un piede che stava toccando o non toccando. Tranquillo, adesso lo sta facendo, forse perché c'è un po' di venticella magari. No, il PL del coso, del commutatore che non era stretto bene. Prova a vedere se le prenderà. Adesso è perfetto. Adesso va bene. leggere bene quel PL, sennò scrive fate l'apparecchio, capito? PL era brutto, non faccio aspetta no. Una pangualla, che se no si sentiva altra cosa. Sono detto Nava. Ci andava bene, già va bene. E c'era il piede che non era stretto bene, me ne sono accorto e allora l'ho stretto bene. Forse era quello che faceva falso contatto. No, si è rendevare la tariva. Si è sceso tutto il tratto, segnale 9, dalla 20 e 10, 9 di colpo. Guarda quello di dietro, perdonami. Allora c'hai una radio con l'accordatore automatico, un gazidutto, commutatore, accordatore manuale, cosa cazzo non fai? Metti l'antenna diretta, quando c'hai stazionarie, tieni il pulsantino in automatico, ok, lo tieni, auto. Quando c'hai stazionarie, pigi e se vuoi fare lui te l'accorda, basta. Sono radio quelle da tenere con l'antenna diretta, che cazzo cacci tutto, commutatore d'antenna. C'hai l'accordatore automatico, c'hai anche quello manuale attaccato, non serve a niente Natalie. Metti la radio, metti la diretta, con l'MC60 l'antenna diretta, i baracchini, toglili da mezzo alle balle, cazzo, toglili, non servono a niente. Metti l'antenna diretta, commutatore, non te ne serve, non ti riservi, se devi trattare chi radio, datti chi sei boh. Quando poi devi cambiare quella radio, stacchi il piede e lo attacchi da un'altra parte. Questi commutatori non servono a niente, a nulla. Accordatore manuale, non ti ne va in nulla, strumento, non ti ne va in nulla. C'è una radio completa con accordatore automatico, ti dai watt, ti dai delle stazionarie, ti dai tutto, cosa ne fai di tutti questa roba attaccata? E per cambiare velocemente il radio erami. Ma cosa devi cambiare Natale? Ma sfruttati quella lì, ma cosa ne fai di questi baracchini? Mettiteli lì vicino e lasciali stare. L'antenna dai retta a me, metti la diretta su quella radio, c'è lo strumento su quella radio, c'è lo smitter, c'è il watt e c'è le stazionarie ed è preciso, non serve né c'è l'accordatore automatico, cosa vuoi di più? Tutte queste dispersioni che c'hai, cavi, cavetti, spettori, spettoncini. E aspettate, da, parlate voi e io ne tolgo tutto. Non ho sentito la radio, dove stai parlando? Ho detto, va a sentire di tutto la radio. No, vai andè. E a momenti, qua, ora noi andendi. Hola. No, ascolta, domani mattina staccalo quel microfono che passo a prenderlo e te ne porto un altro. Non le voglio rotture di balle, ora lo restituisco e si arrancia. E cappa, va. Hola, hola. Ora pari si andendi. Non è che un attimino deve andare e poi non deve andare più. Se c'è un problema se lo tiene e se lo mangia, cosa? Grazie, non te ne ha dato a vendillo, era buono, non funziona. Te ne va un altro e quello lì glielo restituisco. E ho fidato. Vabbè, mio, è torra così. Adesso me lo stacco, va fanculo. Tanto ne stacco l'accordatore e tutto. Adesso gli metto l'antenna fissa. Tacca, non è tutto. Dammi retta. Quella radio deve funzionare con l'antenna attaccata e boh, non hai bisogno di nulla, né strumenti esterni, né un accordatore esterno, né commutatore esterno, non hai bisogno di nulla. Quella radio è completa e la lascia stare così. Lascia avere che MC60 ciò qua. Prendere un altro, vediamo se è nuovo come quello, vediamo un pochino, aspetta un attimo, anche una. Sì, fai, non c'è bisogno, è solo un po'. Avanti Lecce, buonasera, ciucucciù. Eccolo qua, vediamo un po' se questo funziona bene, sta funzionando bene. Sì, ti sento bene. Gappa, allora questo e l'altro lo restituiamo perché mi sono rotto veramente le spalle. Mi hanno toccato un po' gatto il microfono, un po' funziona, un po' non funziona. Stasera stava benissimo, poi tu? Poi ho sentito di nuovo come è male. Vabbè, c'è quel problema della rete là sopra, lo fa un po' di venticello e immediatamente gli fa quel difetto. non fa contatto bene. Ah, va. Vabbè, no, non è davvero che il bar non mi interessa, però questo qua il cappello ce l'ha, quindi no, ci bisogna manco di cappello. Quello è il capito simile a quello che c'ho io nella 12, là. Che c'è la uscita 8 fuori, 8 cavetti, c'è. Cazzo, ogni baracchino c'ha un cavetto diverso. Cavalcava, si mi tocca farmi un cavetto lì a me, per poter togliere, cioè, no, mi sono fatto una foto. Ma se andavo a mangiare per controllare tutte le comunicazioni di questo, deve essere passare dalla ICOM alla 24K solo, sarà un'impresa. Detto c'è questo qua compatibile da tre cose, ma non sa che ne fa niente il microfono. Gli ho messo mi ha incontrato se si può diventare con la batteria 9, ma penso di sì. Aspetta un attimo, guardate se sto andando bene adesso che ho messo l'antenna diretta all'apparato. Sono più forte, sì. Sono anche più forte. Perché magari c'è la distorsione. Non sono a tali mancate con telefono e segnale niente. Quel tipo di radio l'hai già avuta. Quando tu li attacchi c'è l'accordatore automatico, quando tu li attacchi un altro accordatore supplementare, poi li metti un commutatore, tutti gli spezzoni, la radio non va bene, non sta lavorando bene. Antenna diretta su quella radio lì, dire, non hai bisogno di strumento di niente, non posso garantire, perché le stazionarie te le segna giuste, precise, quindi ce li hai, i watt sono precisi, ce li hai, cosa devi avere in più? E così ho fatto. Allora comprendi pure un microfono. Sì, ma fottiti di un microfono, Atari, no, non dobbiamo stare così. Io ho provato a provare, no, non va bene, non mi piace. Quindi domani mattina te ne porto un altro, capito? Stacchi il cavetto lo tieni perché è quello originale e io ti porto solo il microfono e gli agganci il cavetto. Boh, basta. Questo è nuovo lo stesso, cioè, mi pare un ma leggero, un graffettino che manco ci vede, però è nuovo lo stesso. Però funziona sicuramente meglio di quello lì, perché questo problema non ne ha mai creato. Ma che bugatteria! Sì, io sono preciso, non ne voglio rottere in base. Non è roba mia, se lo tiene, esce a mille luci. Ne do un altro, io ne ho di MC60, quindi non ho problemi ad altro, figurati, e almeno sei sicuro che funziona, perché è roba mia, la roba mia funziona, tranquillo che funziona, lo sto usando, guarda tu, problemi non ne sta creando, è perfetto, in posizione in, il PTT e l'OC sono perfetti, quindi usate questo e quello lì lo restituisco. Ok, andrà bene Mela. Se no, Natali, siamo sempre un piccolo di il microfono va, ma mi piglia male. Una cosa quando si usa deve essere funzionante. Quello evidentemente va rivisto, era troppo fermo. Vado a Teo e Valari, io le faccio sostituire direttamente l'interruttore. E poi lo terrò io di scorta, non me la fotti lunga a me. Ti ripeto, già ne ho di MC60 io, non c'è problema. Domani mattina ti chiamo e te lo porto questo, ok? Riprendi Antonio. Già va bene. Poi adesso comunque la Natale sta scendo bene. Qui quegli spettatori un casino, basta che muovi uno, facciamo mettermi del 58 o il 213 ti crea sempre problemi, è come lanciare la luce della baracchina, ci metti il rosso, metto, fai muovi che ti muovi e ti trovi il cavetto in corso. Facciamo così anche a me quando usavo il Kone 4000 con lineare, dopo lineare ci mettevo il rosso, metto con l'accordatore, metto il batte, metto del lineare, non funziona e devo cambiare, capito? A un certo punto mi sono rotto le balle, ho preso e ho fatto lineare, ho lasciato davvero, ho fatto attacco diretto, se la piglia in Napoli, devo stare ogni volta con questi spezzoni a girarmi le palle e a bruciarmi la palla per niente. È già successo una volta, mettendo lo spezzone e ho bruciato lineare con una cazzata. Se non l'avessi messo con il blocco, smetto a quest'ora il lineare, sarebbe stato ancora funzionante. E invece purtroppo è successo così. Adesso mi metto subito a parte e ripio i finali. Tanto cosa hanno, c'è stato 7-1, cosa? Ce ne sono 4, figurati. Ma a me una volta che li collineare a posto devo fare dai 3-400 euro, capito? E cos'è il 507? No, è il BV2001, quello trasistorizzato, c'è 4 finali dentro. Guardate sempre se fa qualche scatto strano, perché gli ho messo il 213 diretto. No, sei a posto, già va bene adesso, a Vuglia. E qualche sezione di Reggi 58 in 90 beve. A volte già capita, capito. Il petro di purtroppo sono così, a porta di attacca, attacca, se ne vanno in quattro da soli. Sì, infatti. Va bene. Io ti porto questo, che ho già pulito. È buono lo stesso, nuovo. E sicuramente funziona meglio di questo. Che cosa vuoi ti dica? Mi avranno funzione migliore, vabbè, avranno aggiudicato nulla. Interrometto, difettoso con l'interruttore, col microinterruttore, fatti i dini. Usci, già ti tengo una testa, domani ti prendi questo. E infatti, mia ave, ora è nuda, non funziona. Dunque, senti le molle, veramente di fattoscio. Quindi, quello lì è buco. E sono finiti giù. Questo l'ho attaccato da qua, l'ho attaccato e sta funzionando. Non ha mai creato problemi, quindi non penso che a casa mia avuti problemi. Infatti, cosa vuoi che ti dica? Ma qua ci sia, dove sta funzionando qui? Non trovo non ci sia qualcosa lì anche, mi sia tutto collegato bene. Allora, il cavo è originale, l'ho staccato dal mio MC60. Adesso ti sto dando anche il mio MC60 e cazzo mi rimo, ci muoviamo bene. A che impressione c'è un cavetto buruchissimo? Ho toccato il cavetto e adesso sta andando. No, il cavetto Natalia Futtidini, quel cavetto è originale. Io ce l'ho una vita quel cavetto sul mio, l'ho staccato dal mio microfono, non ha mai creato problemi. Non è il microfono, non è il cavetto Futtidini. Vabbè. Anda bene, veda. Cavetto, ma perché non è niente, neanche il cavetto. Quindi io sto usando il tuo cavetto, ho già conti, già vedrato. Io sto usando quello che mi hai dato tu, il cavetto. Perché tutta la righe c'è qui tra te, non ho fatto un difetto, quindi non è questione di cavetto. È questione di microfono. E ci vorrà l'interruttore nuovo. Se non alimenta, capito? Se non alimenta, è così, c'è niente da fare. Vabbè, dai, la risolviamo, già è sempre fattibile, le cose sono sempre fattibili quando uno è disponibile. Quando uno non è disponibile, allora i cose già deve essere, ma io sono sempre disponibile, quindi il microfono ho. Ce n'è un altro, quello lì lo faccio controllare da chi devo farlo controllare. E poi vediamo quello che devo fare, ovvero io quello devo fare, non ti preoccupare. Sì signore, anda bene me, dai. Siamo venuti a giurare a provare. Prima di acquistare, devo sempre provare, siccome siamo a Sassi le cose le possiamo anche far provare, no? Siamo accorti che il microfono va bene, abbiamo cambiato il cavo, non va bene lo stesso, perfetto. Si restituisce e se ne prova un altro. Ok? Domani mattina ti chiamo. Subito lo usci. Sì, infatti. Ma ogni tanto si incanta, compreso. Sì, è un gioco che si incanta. Quante battaglie ho fatto io con gli MC60, già li conosco bene. Però pensavo fosse il cavetto, invece il cavetto tuo lo sto usando io e non mi hanno creato problemi. Allora non è il cavetto, allora è il microfono. Il microfono lo succulino a terra, vedi che già funziona, già se ne do altro io. Anda bene Meda. Ok, da. Che ora so? Fino alle 11. Alle 11 mi tocca aspettare. No, no, devi prendere pastiglia. No, gli abbedenti dice che famosi ma rompito le balle su questi programmi. Non potresti mai entrare un po' in radio. E prendi Antonio che va a prendere una sigaretta. Un po' così inabissato. È un guardiano che aiuta la gente che vuole prendere una sigaretta. E vai, vai. Ehi, sono rientrato, è un attimo, che stavo parlando con Simona. Ok. Cara gara. Adesso vedi, sta verificando bene. Ma ogni tanto si incanta, capito? Tu schiacci e non vanno i picchini di modulazione. È come i puri. Ho capito. Quindi vabbè, in parte devo sentire la male. Intanto ti piatta l'altro qui. Sei più tranquillo. Cosa? Stavo dicendo, intanto ormai ti piatti l'altro e più tranquillo. Se si incanta il pulsantino. Domani l'altro e almeno esce bene. L'importante è che non si mette, già è stata con la camera, se si mette tutta questa roba, tu con tutti questi spezzoni, muovi qua, muovi là, c'è buonanotte, peggio di camera mia. No, pure quella radio non ho bisogno di niente, cazzo, non stai scherzando. E come io alle 19:20 mi metto ad attaccare l'osmetro, vattimetro, esterno, c'ha tutto, c'è un display da paura, tu schiacci il metro, ti dà l'amperaggio, l'assorbimento, i watt, le stazionarie, la curvatura, ti dà tutto nel display ti segna, cos'è il compressore, il processore, tutto ti segna, cos'è devo attaccare, la penna diretta e boom. Vabbè, se c'è tutto, dove vai, gli strumenti a te, fai nulla, voglia, diretto, cioè direttamente da DG 213, diretto, l'osmetto non è attaccato per niente perché non me ne posso muta, e l'osmetto è attaccato 1500-4000 dall'altra parte, e l'altro l'osmetto adesso fa il video al DVD. Siamo di Santenna, gatto di far di chifo, bisogna montare con la nuova e basta. In più tutti questi spezzoni, tutte queste perdite, tutti questi cagati, non si viene nulla. Quella radio deve andare diretta e buona. E basta. E tu esci una canonata. Non hai bisogno di nulla. Infatti. Per quell'antenna sarà un casino per lui. Aspetta l'antenna nuova. Già che è piena e sono trovati di buon umore. Sale su, stacca quella lì e ci mette la nuova. Sì, la nuova va piazzata là sotto, ma se è stata a muro, piazzata l'antenna col telescopico, messa nelle staffe e tirare sugli elementi, tirare e bloccare, fino ad arrivare su, va. Una cazzata a piazzare quell'antenna da terra, ma lo mantenevamo piazzata da prima. Ah vabbè, così sì, così via bene sì, ma se c'è tre persone, sale da solo, sale. E io vabbè. Sei a casa domani mattina, magari, sì, sono a casa domani. Ehi, va bene. Ehi, domani mattina. Se lo faccio alle 9, faccio colazione e tutto, poi ti chiamo e faccio e te lo mi porto via quello. Tanto mi serve solo il microfono. Lo spezzone tieni quello è nuovo. Non va nulla lo spezzone, il microfono si viene nulla. E non si viene nulla. Rugoso mi sarà ossidato. Ma gliel'ho messo io. Gigante statale. Il come si chiama? Il disossidante, proprio per contatti è quello che gli ho messo io. Quindi vabbè, praticamente non basta, vuole nuovo una pelle. Io uno gliel'ho fatto cambiare ad esempio, quindi evidentemente vuole nuovo. Una cazzata, stacca le figlie, ce la cambierai luogo. Per evitare. Siccome stai provando, qui devi avere uno che funziona. E poi si sistema. Capito? Siccome io ce l'ho, se ne mio, e usi quello. Io già mangio un parecchio. E cappa. Va bene, vedi, adesso non sta funzionando, per esempio. Me ne accorgo che non c'hai PC sui. No, non sta funzionando. Se questo, vedi, quello sto, questo sto usando io, sempre perfetto. Non ho mai fatto nessun problema. Quindi, non sei sicuro che funziona, e vabbè. Se c'è qualche problema, allora bisogna controllare bene. Non so, no, i problemi non ne hai, quindi questo è il microfono. Va bene, dai, io mi sto calamaiando, sono già alle 11:15. Sono stanco, ma vado un po' a vedermi la TV e poi mi tengo. Ci sentiamo domani mattina, Natalia, tranquilla, sereno, che già mettiamo tutto a posto. Ciao a Cantonello e a tutti quelli che stanno ascoltando, bye bye. Bye bye Claudio, là. Ci sentiamo domani. Io. Ciao Claudio, ci sentiamo domani. Che cappa, vedi? Non funziona niente, manco ba. Stiamo andando adesso. Già me ne accorgo dei picchi di modulazione. Che è così. Nulla, no, non anda. C'è la lamella, insomma, capito? Una volta che si sono ossidate. Quel discorso lì, sono state la mele, come dire, io usavo in quei telefoni una volta con le placcate in oro, cioè, un tubo sarebbe ossidato, se ti sarebbe durato quel pulsante almeno 80 anni. Già lo so, però purtroppo questo così adesso magari lo muovo un paio di volte e torna a funzionare. Quando sono la mele ci pulsatino così, poi. Di Natali, a volte funziona, a volte non funziona, capito? Che c'è video? Ola, nulla, non sta andando. L'ho mosso, torna l'interruttore ma non funziona. Evidentemente sono proprio le lamelle di dentro consumate, non lo so. Perché gli ho messo il disossidante, quello per contatti proprio. Sono ossidante, ma no, una cosa è ferma, parecchio tempo si è passato da posizione, si forma l'ossido, capito, per forza. Come nel microfono di Salerno, per dire, lo sai più di me, quando là ci si è passato da posizione, si entra a polvere, si forma tutto quel casino e non funziona più, devi cambiare lo slider. Così anche i potenziometri. Lui e c'è noi trim, quelli le malattie, la stessa cosa. Anche se una volta che rimane fisso lì, dopo tanti anni non conduce più, devi cambiare per forza. Così deve essere. Ma cosa vuoi che ti dica? Vabbè, ha capitato una cosa, figurati. Nel Saturno era una piazza che ho staccato il trim, siccome era sempre fermo, io ho preso, l'ho regolato e invece non funziona mai nulla. Oppure che un giorno ho pigliato così per sbaglio, ho preso, ho scritto proprio la pena dei cerici, ho lasciato mobilire bene, dopodiché ho preso, ho girato, meno mi la svizzera non funzionava, ho preso, ho chiuso tutto l'apparecchio, era perfetto. Poi ho pensato a Carlo, avevo pensato, ho detto, prova la casa tua per come esce, era una bomba con il microfono salente. Usciva veramente forte. Già lo so, ma cosa vuoi dire, se non funziona, qui ci avete con questo, lo stesso, qui va. Ho fatto fuori subito, a quel pezzo, regalato, come se l'avessi regalato, sui 50 euro, funzionante, beh, è perfetto pure, quindi, finita. Cava, sì. che mi sono capitato in Saturneco a Puglia. Quello è il tempo che ho avuto in pratica come Saturneco. Adesso sembra con lockdown che c'è, tutti 300 euro ne vogliono, già c'è un giorno, ho visto uno che c'è 4 mesi che ha fatto il kiwi 300 euro, vedrai come cala. Quando comincia a avere la crisi bene bene che ha bisogno di soldi, vedrai come scende a 150 euro. E se lo trovo uno me lo compro. Si trovano quegli apparecchi. C'è la parecchia gente in casa che non lo sta neanche usando. Quindi ho trovato qualche CP magari che ce l'ha buttato, dicevi me lo dai, se non te ne fai nulla. Direi che ho 50 euro contanti e te lo fai dare. Ce l'esco, forse ne aveva uno di quelli, era in pratica quel del bomboraio che c'è in via Turatti, se l'ha fatto sequestrare, non ha fatto neanche il foglio di sequestro. Mi ha detto, ma dove va così? Mi ha detto, mi sa tu ne con l'uomo dopo, con quella linea da 500 watt, nulla, ha preso e dice non mi interessa nulla, mi ha detto. E vabbè, se non ti interessa, ha detto, peggio per te. Lascialo lì, ho detto, già se lo vendono loro. Una volta che passa poi il tempo, quel tempo lì lo mettono all'asta e se lo vendono. Sì, infatti, sicuramente lo metteranno all'asta. Mi ha anche chiedere di alle poste, che c'è una roba c'è buscata nel deposito di apparati sequestrati. Mi ha conosciuto qualcuno di alle poste. Dove metto la roba sotto sequestro. Voglio andare e prendere all'asta. All'asta con pochi soldi lo prendi. Solo perché bisogna sapere quando fanno l'asta, come fanno di solito anche negli aeroporti, dato per dire, no, che c'è di tutto, computer, telefonini, un sacco di roba li buttata. Se non sai dove la fanno l'asta, non le prendi mai, capito? Quindi bisognerebbe andare nel sito delle poste o chiedere qualcuno che lavora lì magari al deposito a Sassari e chiedere. O anche a cosa me. All'autista, quello dell'Esco, se ne lasciano un giorno che non lo vedo, prima lo volevo tutti i giorni. Insomma, da parecchio che non lo vedo, solo l'avevo chiesto, dov'è che pago le aste per gli apparecchi sequestrati? Se mi dice, perché che senso vi c'hai? Devi comprare un po' di roba e dico, faccio il pazzo come prima. E tu gli sembra sapere, Rudy? Guarda che prima di morire Mario Chigine, 3 anni fa, avevo incontrato l'autista e anche a cosa avevo incontrato, a Zucca, e mi ha fatto, beh, Alizio, sempre la modello che stai facendo, ho detto sì, sempre, gli ho detto, e adesso come stai usando? E gli ho detto la parecchia, no, chi l'ho fatto sto usando, gli ho detto, non sarei matto, mi ha detto, tu, ho detto, già lo sai che io usavo gli effetti 250, gli ho detto, omologato, da 100 watt, gli ho detto i corti. E se buttare lì? Mi fai tutta mia capa da risa, perché loro lo sanno. Allora, adesso va bene che non è vero. Ci avevo fatto amicizia, ci avevo fatto. E Mario li conosceva bene, tutti li conosceva, capito? Sono andato anche lì insieme a lui. Adesso va bene che non è vero. Ma con la macchinetta più vista fuori, figurati. Tutti in ufficio finché non andavano in pensione. E infatti basta che uno se n'è già andato in pensione. E adesso assumeranno la paziente, assumeranno, adesso c'è il bando per l'assunzione alle poste, stanno cercando postini. 2000 e basta che stanno cercando. Ma di geometra o ragioniere per entrare a fare il postino. Se non vai al diploma delle scuole superiori non ti piglia. Che cazzo, la porta in casa, se bisogna essere geometra. quindi allora fa l'affare uno, allora facciamo quello, facciamo quella che si è portato la forza in casa, si è portato. E allora, il diploma superiore ci vuole per entrare forse a fare il postino. E beh, non tamburi. Come va? Ciao Antonio, rientrato adesso. Bottiglia d'acqua fresca dal frigo, ho acceso e ti ho sentito, buco. Allora, acqua fresca, e non vedo in giro per il circoli. Tu te l'avevi serrato in casa, un paio d'ore, dalle 8, fino adesso. E quindi era dovere, dai, prendo una boccata. C'è una tarina. Ciao già. Noi funziona in giaccio, gli attacco le medie di 4, vaffanguale. Attacca le medie di 4, la tenere meno, se ti sentiamo come ci deve. Quindi il profè. C'è qualche circolo sempre aperto in quella zona, c'è o c'è il lockdown da batterie chiusi, dei carabinieri, dei poliziotti, lì ogni tanto c'è, è un periodo adesso, ma prima non succedeva mai una cosa del genere, sempre in affaratoria solo in quella zona. Io quasi in un posto abbastanza tranquillo, mi chiamo Asia. Già da un po' di tempo esco alle 8, sono tornato poco fa e niente, no, ambiente tranquillo, gente tranquilla, tutto bene, normale, amici nuovi e vecchi, nuove generazioni, e niente, dai, tutto bene. Ah beh, così sì, così è bello andare a divertirsi al circo. No, io mi qualche volta con mia sorella vado lì a Caira, prima del passaggio a livello, c'è quel circolo, c'è, vado lì, non ti va a fare male nessuno, c'è tutti i ragazzi giovani sono, in più c'è anche quella vola lì, quella che la moglie di quello che prendeva le bandiere, te la ricordi, penso di sì. Ma chi era? L'ex compagno di tartaruga. Eia, l'ho trovata l'altro giorno, l'ho trovata. E gli ho detto, cosa ci fai qua? E io sto lavorando qua, mi ha detto, dov'è? E ha detto, e tua figlia è sposata, sì. Mi ha detto, sì. No, guarda, non sono... Vabbè, più o meno conosco un po' di posti, però... una volta che mi affeziono in un luogo... che trovo l'ambiente giusto, rimango lì, poi per carità, magari se becco qualche amico, andiamo qui, andiamo là, pronti, dai, andiamo giusto a vedere, ma sono abbastanza, come si dice, abbastanza abitudinario, dai, mi trovo bene in un posto e ci rimango, poi per carità, ti ripeto, secondo l'amico che trovi, andiamo qui, andiamo là, ok, dai, e niente, ma sono potuto tornare in casa che devo prestare attenzione a mia madre, non mi posso permettere di fare altro, dai, giusto 2 ore la sera, e quindi esco e mi svago un attimino. Quel lavoro l'ho fatto anch'io, però io, anzi, tutto messo così, io qualche volta mi fuggo con Giovanna fugge per non stare con i bambini, e io invece fuggo da qua, e devo stare attento a Simona che non fa bene, capito? E quindi poi mia sorella c'è mio fratello da controllare, vabbè, adesso in ospedale, dico, guardato, prima di esserci lui c'era mia madre, poi prima di male mio padre, e io via, mi ho fatto giri io, ho fatto il bandante, ho fatto, tanti anni. Le ha voglia, sai quante cani ho cambiato, quanta merda ho raccolto, eccetera eccetera, e pulito culi, oh yeah. Non è facile, dai, se non abbiamo almeno quel paio di libertà si esce in testa, oh yeah. E si sarà ridotti. Avanti Natalia. Sì, ci ho attaccato l'MB più 4. Guarda bene. Ammazza la pena. E il macchinino che voleva ammazzarlo. Era troppo forte, perché il microfono va sempre a metà. Adesso vai benissimo. Sei un pura bagiusse. Andava bene. Naturalmente me non paio d'ore di ogni giorno. Uscire, bersi qualcosa, mi. Se non si può ogni giorno al limite una volta a settimana, ma se no impazzisci in casa. Sarei sempre dietro quattro mura, mamma mia. Pare la serie domiciliare. Va bene ragazzoli, dai. Io sono entrato così a salutarvi, dai. Ci sentiamo un altro momento, dai. Buona continuazione e alle prossime. Ciao Alessio, ciao Natalino e tutte le orecchiette pelose, dai. Buona notte a tutti, ciao. E poi chiudo anche io che mi devo fare quella cosa là. Oggi ho fatto tardi, quindi visto che fino a che ora mi tocca aspettare. Ci abbiamo parlato del vostro parlato. Ciao Gianni, ci sentiamo, stai bene, a domani sei. Quindi mi stai ritirando la tavia, adesso ti fai quella cosa lì e poi ti darò a me. Adesso mi faccio quella roba lì e poi mi corico. E anche io adesso fa poco mi corico perché mi sta aspettando Simona e Lugane. Dove in attiva ne taglio le ore, il coso ne taglio quella, la lingua cazzo. Alle 6:30 stamattina è venuto in camera a svegliarmi. Ho contato di facciare il culo, mi guarda, si è messo sopra il petto, si è messo, mi guardava, quindi ti svegli? E poi avvicinava il muso per leccarmi, vai, facevo, allontanati. Ciao Natalia, domani dai, chiudo tutto. Buonas noches. Ciao Antonio. Non ci crede, ma anch'io chiudo adesso. Non ci credo. Ciao anche alle orecchie pelose, correti per me. E io d'accordo, ciao.